7A. Ascolta e controlla. 1. Dove hai il passaporto? Ce l'ho in borsa. 2. Che giorno è domani? È lunedì. 3. Hanno il biglietto? No, non ce l'hanno. 4. Avete un conto corrente? Sì, ce l'abbiamo. 5. Signora, ha un numero di telefono italiano? No, purtroppo non ce l'ho, ma ho WhatsApp.